Questa serata è stata organizzata per fare chiarezza sulla normativa che gira intorno al pacchetto acqua, soprattutto alla luce del referendum dello scorso anno, alla luce del voto che hanno dato gli italiani. Stasera, grazie al Comitato Comasco Acqua Pubblica e all'avvocato... alla dottoressa Edi Borgianni, cerchiamo di chiarirci le idee. Quindi lascio la parola. Va bene, ho la professionalità, nel senso che sono laureata in legge, ho fatto la pratica, svolgo attività cosiddetta di legale per l'amministrazione pubblica, però non avendo superato l'esame di Stato, non essendo iscritta, non voglio fregiarmi di titoli che non mi appartengono, anche se poi il lavoro che faccio è quello, insomma. E devo dire che analizzare le norme e le leggi a me piace, sono di una delle sue depravazioni e questa è la mia. Però al di là di questo, di questa mia passione che la utilizzo appunto per in quanto credo nella solidarietà, nell'ambiente, nel rispetto della vita e delle persone. E quindi mi sono trovata col Comitato Acqua fin dal 2006, perché il problema in realtà nasce ovviamente da prima, in cui già c'erano delle leggi che portavano verso la privatizzazione fin quando siamo arrivati alla legge che obbligava a privatizzare. A quel punto, come forma dell'acqua, hanno deciso per il referendum, perché se è una legge che dà delle scadenze e dà un obbligo, è l'unica cosa per non applicare la legge, è abolirla, non c'era tanta scelta. Come voi sapete, il referendum è andato benissimo, nonostante che non se ne sia mai parlato nelle televisioni nazionali o per nulla, e quindi siamo riusciti a superarlo. Dice, va bene, il lavoro è fatto, siamo a posto. No, purtroppo abbiamo dovuto continuare a lavorare. Va bene, questa è una serie di slide che ho preparato su tante cose. Questo era appunto per mettere in evidenza come spesso non pensiamo a quanta acqua viene consumata, è per questo che è molto importante come viene gestita, che sia una gestione pubblica su cui non ci siano dei guadagni in più, perché appunto l'acqua, come è di immediata comprensione, è proprio primaria per la vita, ma non solo per la vita, noi la usiamo proprio per tutto, per qualsiasi cosa, anche nel momento in cui non ce ne accorgiamo, anche per bere il vino abbiamo bisogno di 200 litri per un calice di vino. Questo utilizzo eccessivo crea dei grossi problemi, tra cui tra l'altro se noi usiamo tanta acqua, sporchiamo tanta acqua e creiamo problemi, anche se qui diciamo che ne abbiamo tanta, però più ne usiamo più creiamo problemi di depurazione, quindi costi, inquinamento. Questo già solo con l'acqua potabile, con l'uso della lavatrice, dell'acqua che si beve, poi nello scarico dovrebbe essere... È già acceso? Sì. Sì. Grazie. E poi dopo deve essere appunto depurata e si crea un giro abbastanza particolare. Oltretutto non siamo neanche così ricchi d'acqua, perché il dossier di Legambiente è appena uscito un mese fa, messo in evidenza come in Lombardia siamo a rischio proprio di carenza idrica, siamo in emergenza. Nonostante che abbiamo a Como il lago alto, adesso i fiumi sono pieni, ma non avendo nevicato non abbiamo le riserve. E quindi c'è anche questo problema. Scrivo i sistemi. Allora, non prendete stasera, devo dire che era stata organizzata bene, mi è stato detto, erano andate a prendere l'acqua alla casa dell'acqua, ma poi è rimasta per strada, quindi però io avevo sete e non farmi rimanere assetata, siamo arrivati a prendere anche noi l'acqua, che insomma, non è che non deve essere mai usata l'acqua in bottiglia, ma non l'uso che se ne fa di solito, che è eccessivo, quando invece basta aprire il rubinetto e abbiamo un'ottima acqua. Allora, qui si entra nella parte, diciamo, di solito più... che può essere anche noiosa da seguire, non tanto semplice, no? Anche se con un referendum qualcosa ormai è entrato un po' nella cultura generale, soprattutto perché in quel periodo si diceva sempre stiamo applicando la normativa europea, cosa che non era vera, l'obbligo privatizzare non esiste nella normativa europea, la normativa europea diceva che ogni Stato sceglie cosa vuol fare, se però dice che è un bene economico, ci sono delle norme sulla trasparenza e sulla concorrenza per il commercio e quindi vanno rispettate. Se non scegli che è un bene economico, non devi applicarle. Però anche se scegli che è un bene economico, tu Stato, puoi avere vari tipi di situazione. Allora l'Italia appunto ha fatto questa scelta che il servizio idrico insieme a tutti gli altri servizi, ad altri servizi, era cosiddetto di rilevanza economica, ho usato questo gergo. Ma anche se è di rilevanza economica, l'Europa, e questo non è semplice poi da andare a vedere la costruzione, perché non è una norma. È stata la Corte di Giustizia Europea che ha aperto questa possibilità in cui non va solo messa a gara, ma si può anche fare una gestione diretta, e si chiama in house, non per i soliti mania dell'inglese, ma perché è la Corte di Giustizia Europea che ha creato questa figura, ha utilizzato una delle lingue ufficiali, quindi in house, poi vuol dire gestione diretta. No? Quindi anche se la rilevanza economica, però in determinati casi può esserci comunque che l'ente locale la gestisca direttamente, questo è sempre a scelta del singolo Stato. L'importante è che può essere anche una società per azioni, non ha importanza, però non può esserci assolutamente nessun privato, nel modo minimo, proprio neanche lo 0,01% che stanno decidendo come gestiranno l'acqua di tutta la provincia, quindi anche di questo comune. E la normativa nazionale, vabbè, risale, mai applicata completamente, perché ormai è passata acqua sotto i ponti, tanti punti si sono modificati, e comunque c'era questo lato, che è l'ambito territoriale ottimale, che doveva riguardare però il bacino idrografico, non solo dal punto di vista però lo stesso fiume, lo stesso lago, poi anche proprio dei collegamenti. In genere solo qua in Piemonte, in alcune zone, è stato applicato questo concetto, in genere non è mai stato fatto. Per cui ognuno è andato avanti a gestire, qualche comune poi si è unito, qualche l'hanno messo insieme, hanno fatto dei consorzi, hanno fatto delle società in comune. E questo era l'articolo 23 bis che siamo andati ad abrogare, come è stata anche abrogata la remunerazione sul capitale investito, che è stato importante che anche i cittadini della provincia di Como l'abbiano votato, però la provincia di Como è un problema che non abbiamo. In quanto per poter applicare questa percentuale in più doveva prima esserci un progetto economico sulla gestione dell'acqua che la provincia di Como non aveva ancora fatto, ha fatto un anno e mezzo fa, per cui eravamo già vicini al referendum e chi lo gestiva, come la CSM Agama e poi nelle varie gestioni, ha ritenuto che non fosse il caso di applicare una cosa che magari 4 mesi dopo saltava già. Quindi diciamo che ci è andata bene in provincia, non abbiamo avuto questo surplus, su questo siamo a posto. Quello che è stato fatto poi ad agosto, quindi pochi mesi dopo del referendum, e in più è stato chiamato applicazione del referendum, il titolo era questo, applicazione del referendum, veniva riprodotto pari pari il 23 bis, dicendo che era applicazione dei risultati del referendum, quindi ci si è sentiti anche un po' presi in giro. E allora si è partiti come comitato a mandare mail in giro, scrivete in Parlamento, fate qualcosa, eccetera. Abbiamo, sono stati chiesti anche incontri, mandate lettere ufficiali e alla fine, nella parte, c'è ancora il servizio idrico, ma nella parte in cui obbliga a privatizzare e rende quasi impossibile fare l'in-house, il servizio idrico è stato escluso. Anche se comunque c'è dentro i trasporti locali e i rifiuti, che invece anche quelli fanno parte del referendum, no? Comunque quelli niente, non c'è stato niente da fare, ce lo siamo ripreso il 23 bis, chiamato invece articolo 4. Poi abbiamo una legge regionale, su cui questa legge regionale è ancora in vigore, c'è appena stata un'edizione con i comitati regionali per l'acqua pubblica, questa legge. Perché la legge nazionale ha deciso che la regione che deve normatizzare e regolamentare chi andrà a gestire, perché che la legge nazionale ha fatto questo, ha abolito, adesso si entra un po' in tecnicismi, l'assemblea dell'ATO, cioè l'ATO in sé è rimasto, quindi l'ambito territoriale, però la legge nazionale dice che è la regione che deve decidere qual è l'ambito territoriale e chi avrà in mano questo ambito territoriale dal punto di vista amministrativo, non la gestione proprio del servizio. E prima c'era l'assemblea del Lato, che era composta da tutti i comuni, da tutti i sindaci. E a questo punto invece la Regione Lombardia dà in mano questa organizzazione amministrativa alle province. Quindi comunque noi abbiamo la zona del Lago di Como, che è tagliata in due in verticale, che dal punto di vista della gestione dell'acqua è lampante, che non regge. Oltretutto adesso le province non si sa fino a quanto rimangono, come rimangono, tanto è vero che a Como, per dire il comune di Como, la provincia di Como è scaduto il mandato, ma non siamo andati a elezioni, proprio perché la legge non prevede più quel tipo di amministrazione provinciale. Addirittura c'è un disegno di legge, cioè, si parla che su una Como con Monza, con Lecco, quindi è stato dato in mano un'amministrazione che non si sa quale sarà, come sarà, quindi è un grosso pasticcio. Si sta chiedendo almeno di risolvere questa questione e soprattutto mentre a livello nazionale si prevede nell'ambito territoriale una gestione unitaria, invece la legge regionale dice che deve esserci un solo gestore. Questo è una differenza importante perché noi abbiamo il territorio per esempio della provincia di Como che ha diverse situazioni, cioè i comuni dell'Alto Lago, intorno a Como, la Brianza, cioè abbiamo diverse situazioni che potrebbero richiedere quelli che noi chiamavamo subambiti, nel senso delle specificità nella gestione, poi con questo gestore a capo che però è sempre lui che ne risponde e che organizza e che coordina. Invece dobbiamo averne uno per tutta la provincia, indipendentemente dai problemi, se ci sta bene o non ci sta bene, poi ci sono i pro e contro ovviamente, questo è da vedere. E comunque si stava chiedendo, e in più la legge regionale prevede che da un punto di vista tecnico ha creato un altro organismo, quindi incappogliando sempre di più le cose, che è l'ufficio d'ambito, che è l'organo tecnico dell'amministrazione provinciale nel decidere, infatti deve decidere le tariffe, deve fare l'analisi sulla società che deve andare a gestire, deve fare tutta la parte tecnica. E in più abbiamo come terzo, quindi abbiamo l'amministrazione provinciale, abbiamo l'ufficio d'ambito e l'altro organismo che viene creato è la conferenza dei sindaci, che però non hanno più il potere che avevano come precedentemente. E allora cosa è stato fatto? Diciamo, noi come comitati ci siamo preoccupati di una cosa. Ecco, ci preoccupavamo di quello che mentre le assemblee dei sindaci prima erano pubbliche, quindi qualsiasi cosa venisse decisa sull'acqua si aveva modo di saperlo immediatamente, l'ufficio d'ambito è una società, il CDA è diciamo segretato, non è pubblica. E quindi il problema era come facciamo a venire a sapere le cose. Abbiamo chiesto delle modifiche allo statuto, questo attraverso dei consiglieri di un'istituzione provinciale che ci hanno appoggiato, e siamo riusciti a ottenere meno di quello che volevamo, qualche cosa, che comunque le notizie più importanti, le modifiche più importanti di essere coinvolte la cittadinanza, se qualcuno chiede di avere audizione, di essere ascoltato e poi di avere delle risposte, perché se ne ascoltano e poi non mi dici cosa ne pensi, cosa fai, non è che mi serva tanto, insomma, diventa un po' parlare a un muro di gomma. E nello statuto della conferenza dei sindaci è stato inserito, e questo non è dappertutto, è proprio una cosa buona a Como, che è pubblica. Ogni riunione della conferenza dei sindaci sarà pubblica, e per ora mi sembra che è l'unica che l'abbia messa, vorrei dire. E quindi insomma si è riusciti almeno ad avere un po' di trasparenza, e poi se i cittadini vogliono partecipare va bene, ma se qualcuno vuole sapere e vuole partecipare ne ha la possibilità, se no c'era l'esclusione. E però adesso abbiamo un altro problema, che a questo punto in provincia di Como bisogna creare questo unico gestore. se andiamo un attimo avanti, ecco, noi vabbè, abbiamo mandato lettere a tutti, ovviamente, come comitato. Abbiamo avuto anche contatti diretti con alcuni sindaci o anche assessori o persone che seguono all'interno dei comuni incaricati. E penso sia stato un lavoro di tutti. E proprio a seguito del referendum, l'assemblea 19 ottobre 2011 dei comuni della provincia di Como ha deciso di costituire appunto questa unica società nella forma dell'in-house. Quindi l'in-house è appunto quella gestione diretta di cui dà la possibilità la normativa europea, in cui non è proprio la gestione pubblica, diciamo, perfetta, perché quelle sono di altro tipo, perché comunque è di diritto privato, quindi con delle regole particolari. In ogni caso, in una forma privatistica è quella che più si avvicina al pubblico, perché i soci possono essere solo gli enti locali che hanno bisogno di quel servizio e hanno un controllo che non è attraverso il consiglio di amministrazione basta, che adesso si distacca dalla società e decide in modo abbastanza da padrone rispetto a tutta la società, ma deve avere un controllo cosiddetto analogo, cioè come se fosse lui comune che fa lui quel servizio senza darlo a un'altra società, e ci sono vari sistemi per avere questo controllo analogo. Quindi nell'ambito di un diritto privato è quanto più si avvicina a una gestione pubblica. E allora hanno deciso di fare questo tipo di società. Questa stessa decisione è stata poi dopo assunta anche dall'amministrazione provinciale con delibera. Quindi ci avviene ok, almeno che sì, vabbè, non è l'ottimo, perché non è l'azienda speciale di diritto privato, diritto pubblico, però almeno abbiamo una gestione che rimane in mano ai comuni, che i comuni seguono. No, non è finita qua, sarebbe troppo semplice. Un po' abbiamo delle situazioni particolari, nel senso che per esempio appunto Como, Prunate, Cernobbio, vabbè, Monza non ci riguarda, ma era per dire il tipo di società. Abbiamo questa società in cui ci sono dei privati e che è quotata in borsa, quindi è tutto un tipo di situazione molto privata, anche come tipo di gestione. E a Como, e poi perché se dobbiamo tenere conto di tutta la gestione sulla provincia, interessa se c'è qualche privato, che in un in-house non ci può stare, se no non è più in-house, chiunque a livello dell'Europa. Perché di solito chi fa ricorso non sono italiani verso italiani, noi abbiamo molti ricorsi proprio su queste gestioni dati direttamente dagli enti locali senza fare i bandi concorsi a livello europeo, e i ricorsi li fa una società piccola dell'Austria, un'altra della Germania, una più grande, una della Francia, e quindi non dobbiamo pensare solo a noi, ma c'è chi interessa, no, a livello europeo poi c'è sempre qualcuno che fa ricorso, tanto è vero che l'in-house è stata costruita su casi italiani, in cui ne siamo venuti fuori bene, per cui sappiamo fare l'in-house quanto vogliamo, abbiamo perso in altri casi in cui non c'era assolutamente ombra di in-house. E qui abbiamo questa situazione in cui la maggioranza delle azioni, tra l'altro, non è detenuta, non c'è neanche la maggioranza dell'azionariato qua, come neanche nella cessione alla gamma, quindi sono il privato che prevale tra le altre cose. E, per quanto riguarda la captazione e la distribuzione, oltre abbiamo in tutto 24 altre società che sono a capitale interamente pubblico, alcune hanno cercato già di essere in house, di essere già di entrare in questa figura. E poi abbiamo tutta una serie di gestioni in economia, cioè sono che non possono tra l'altro più esistere già da parecchio tempo, c'è una legge che non le prevede più per quanto riguarda. E poi ci sono appunto, io qui parlo di captazione e distribuzione, poi ci sono le depurazioni, quindi abbiamo proprio una miriade di gestioni, che è vero che forse a un certo punto di vista qualcosa andrebbe unito e qualcosa andrebbe fatto, ma altre funzionano anche bene, non è che tutte funzionano male. Penso che arriveremo a un totale di 120 gestioni tra quelle in economia, quelle, le depurazioni, tutto, cioè sono veramente tante, alcune funzionano, altre no. In ogni caso le leggi impongono delle scelte, altrimenti vengono commissariati, tra l'altro. Non penso che a nessun comune interessi perdere il controllo, al di là se lo vuole privato o pubblica, avere comunque un controllo. E adesso, proprio in quest'ultimo periodo, in provincia di Como, quindi a livello nazionale, anche ultimamente il governo Monti aveva cercato di mettere, prima avevano tolto il servizio idrico, poi cos'era, febbraio, Raffaele sembra che era febbraio, no? Il governo Monti comunque era riuscito fuori un emendamento che inseriva il servizio idrico e siamo riusciti a non farlo andare avanti questo emendamento. Quindi a livello nazionale al momento siamo tranquilli che il referendum sia più o meno rispettato. A livello regionale si sta tentando di fare dei cambiamenti perché ci sono anche dei problemi pratici che rendono difficile la questione e non danno l'idea di una gestione che abbia senso proprio, quello di dire la provincia, ma crea dei problemi. Vediamo di fare un altro tipo di ambito di territorio e anche tutta una serie di questioni. E a livello locale abbiamo detto vabbè, c'è l'in-house, l'hanno votato, non è ottimo, ma però è buono, insomma, è un po' da accontentarsi, però ci sta, insomma. E invece no, perché abbiamo il problema. Adesso, prima di tutto noi pensavamo, ma anche lo stesso ufficio d'ambito si è lamentato di questo, che chi dovesse analizzare la forma, cioè come sia, ok, la società in house, ma come la faccio? Non è così facile, cioè è abbastanza complicato, fosse l'organo tecnico, cioè l'ufficio d'ambito, tant'è vero che avevamo chiesto un incontro a loro, invece lo sta facendo l'amministrazione provinciale. Adesso, questi poi non sono solo problemi tra di loro, perché nel momento in cui non viene rispettato un procedimento, chiunque può fare ricorso e salta. Quindi è un problema che investe tutta la cittadinanza della provincia di Como, se questo percorso è corretto o no. Comunque, sono quelle cose un po' intricate che bisogna andare poi a analizzare bene. Lo stesso ufficio d'ambito adesso infatti ha appena fatto delle richieste in amministrazione proprio in questo senso. Solo in amministrazione provinciale quello che sta venendo è che Galli, l'estensore della legge che abbiamo visto all'inizio del 93, che si doveva aprire, entrata in vigore nel 94, che è ancora lì un po' arrampicata, ha fatto una proposta su come fare questa. Allora, abbiamo una delibera che dice che deve essere un in-house, quindi vabbè, almeno questo c'è. Però se poi faccio una società che non è un in-house non mi serve niente quella delibera, questo è il problema. E Galli ha un progetto, che vabbè, ovviamente Galli ha una sua influenza perché ha fatto una legge che è importante, è sicuramente una persona in gamba, e che insomma è un progetto che ha la coperta corta, non si capisce bene dove vuole arrivare, cosa viene fatto, sicuramente non è un in-house, questo fuori di ogni dubbio. A parte che la chiama conglomerata, e nel nostro diritto conglomerata è un'altra cosa, la conglomerata è, abbiamo una capogruppo, è un gruppo di società, c'è una capogruppo, una holding, altre società, ma ognuno svolge un'attività diversa. Invece in questo caso l'attività comunque è quella del servizio idrico. Non so, faccio le automobili, una mi fa le ruote, magari una mi fa una cosa che non c'entra niente, ma mi procura dei fondi che mi servono. In genere l'holding è solo una finanziaria che tiene in piedi tutto. Quindi non ci può creare confusione, chiamare con un termine che non è quello adeguato dà spazio ai corsi, dà spazio a confusione. E questa è già una prima cosa che non è formale, perché può avere delle conseguenze molto, molto pratiche. E poi prevede che ci sia questa, che prenda sotto altre società, che però all'inizio rimangono quello che rimangono, anzi no, prevede che rimangono quello che sono. A questo punto tu mi fai entrare, allora, anche ammettendo che avere un in-house che lavora su due livelli, cosa che non è prevista, cioè l'in-house, ed è la società che è lei che deve gestire direttamente, può dare in mano ad altri, solo in particolari casi quando proprio non ce la fa. Invece qui abbiamo una società che dà tutto in mano a tutti quelli che già esistono sul territorio, 120 soggetti. E già questo pone dei problemi. Altro problema è che questi soggetti che entrano dentro, o in cui anzi la capogruppo entra dentro perché acquista le azioni, quindi ci rendiamo conto che una cosa diventa complicata e quindi quando una cosa è troppo complicata ha tanti buchi di per sé, non c'è niente, è così. Sì, ma abbiamo dentro la Comodepur, abbiamo dentro la CSM, poi c'è la Comodepur che è, sì, è privata, però mi sembra sia solo sono, è privata, ma ci sono dentro solo gli enti locali, mi sono un po' persa anch'io, perché uno si stanca anche a guardare queste cose. Se mi metti dentro la CSM e la Comodebor, automaticamente ho dei privati e basta, non ho più le mouse. Ci siamo dibattuti molto su questa cosa, devo dire, alla fine anche i legali, il parere proprio degli avvocati, loro sono proprio avvocati a tutti gli effetti, hanno messo in evidenza la stessa cosa, non ci può essere assolutamente una minima percentuale di privato. Tra l'altro è stato detto molto chiaramente in una sentenza in cui l'Italia ha perso, che riguardava la costruzione di elicotteri per la nostra difesa, e appunto è stata messa in evidenza questa cosa, non ci può essere un minimo privato, assolutamente. Quindi a questo punto, se io faccio entrare come debito la CSM, la risposta di Galli è stata no, è solo un inizio, perché al momento dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo farlo velocemente, lo lasciamo così, ma entro 3 anni, non c'era scritto da nessuna parte. Allora adesso stiamo dibattendo botte, risposte, devo anche dire che tentamanti che porta la nostra voce in consiglio provinciale, si sta facendo venire un'urgenza di seguirci su queste cose, ma anche altri, comunque c'è disponibilità all'ascolto, non che non ci sia, però a volte diventa difficile farsi capire, perché si parla di cose molto tecniche e ci vuole una certa preparazione, e quindi anche quando, anche in buona fede, uno può pensare no, ma ti stai sbagliando, non è che c'è da vedere. Però questo crea sicuramente dei grossi problemi. Ora è stato modificato ulteriormente. Il problema è che in questo documento, in cui per sistemarlo sono state aggiunte, tolte, messe, alla fine è diventato un documento molto complesso, in cui nessuna parte si dice che si farà un in-house. Nessuna parte si dice che le società private saranno ripubblicizzate. Cosa ne faccio di queste società? E quindi adesso si spera che almeno questi due concetti siano inseriti, perché una volta che vengono messi almeno pongono dei paletti che rendono un attimo più chiaro tutto il percorso. Quindi hanno detto abbiamo fatto un referendum, siamo posti, no, siamo ancora attenti a livello nazionale, che abbiamo un po' di, come dire, paura che ci sia una terza o una quarta tentativo, e bisogna stare sempre attenti a queste cose. A livello regionale siamo in discussione, a livello locale un mal di pancia, l'ho detto chiaramente. Adesso speriamo almeno, perché la buona volontà c'è, la voglia da parte, quello che va capito, da parte dell'amministrazione provinciale, dell'ufficio d'alto, c'è la voglia di fare l'in-house, non è che non c'è. C'è la voglia di lasciare in mano al pubblico. Il problema è che non, è difficile far capire come funziona questa cosa. Ripeto, l'in-house non è che noi abbiamo, come dire, cos'è la società per azione? Apriamo il codice civile, per quanto magari uno deve studiarsi un attimino 2 o 3 parole che significato hanno, c'è scritto cos'è una società per azioni, cos'è un SNC e tutto. Sull'in-house no, non lo troviamo in nessun codice. Sono tante sentenze che però valgono come legge, queste sentenze per quanto ci riguarda, che ci dicono cos'è l'in-house. E in più poi ci sono dei regolamenti che però su questo abbiamo discusso, che valgono solo per quella cosa, perché sono delle eccezioni, perché il trattato europeo prevede anche è vero, deve essere messa a gara, però se ci sono delle situazioni di così importanza nazionale a livello proprio pubblico, così può non esserci questa messa a gara, sono previste delle eccezioni, però deve essere proprio quasi una catastrofe nazionale, ecco, non è questa la situazione. E quindi per quanto c'è la buona volontà, il problema è che è una cosa complessa, ecco, noi speriamo che questo documento sia messo nella bozza di gestione, di quello che sarà questo, sia messo in evidenza che deve essere un in-house, che devono essere ripubblicizzate le società che ci sono quei sistemi, senza far spendere tanto al comune e ai comuni per riprendere in mano. Ci sono poi delle soluzioni che sono state fatte in altre parti d'Italia e sono già stati fatti ricorsi, sono già stati vinti dagli enti locali, per cui andiamo su situazioni abbastanza tranquille. E poi bisogna vedere ogni caso, ovviamente, gli accordi che già c'erano, di come poteva andare avanti la cosa. Ecco, quindi sì, il referendum è stato importantissimo, altrimenti adesso sarebbe già tutto, il 40% c'era già l'obbligo che andava tutto privatizzato. Quindi anche dove ci sono degli in-house a livello provinciale che funzionano molto bene, avrebbero dovuto regalare quello che avevano messo in piedi, perché poi veniva regalato, non è che in cambio ricevono soldi, dovevano darlo mediante la gara a un privato. Quindi comunque il referendum ha già fatto un effetto importante. Il problema è che dobbiamo continuamente stare lì a curarlo, a, come dire, dobbiamo farlo crescere, dobbiamo continuamente assisterlo. Ecco, è ancora un lavoro in corso e speriamo che vada un po' a buon fine, insomma. Noi non stiamo mollando, come vedete stiamo continuando ad andare avanti, speriamo che in provincia di Como si riesca, non sapendo cosa sarà la provincia di Como, di tutto, perché abbiamo anche questo dubbio, cosa sarà la provincia di Como, come verrà amministrata, non si sa. Ecco, prima di tutto c'è questo problema, non da poco, visto che dovrà seguire la cosa, ma comunque speriamo che, visto che comunque la voglia di fare una gestione pubblica c'è, anche se in forma privata, appunto come di diritto sto parlando in mente, speriamo di riuscire. Adesso c'era, so che c'è un altro intervento? Sì. Il tempo di caricare. Adesso un attimo. Tolgo qua. Sì. Edi ci ha spiegato come stiamo difendendo con le unghie e con i denti il risultato del referendum. Però nel frattempo noi ci siamo chiesti, ma questo bene che noi vogliamo difendere, in che condizioni è? Qual è la situazione della distribuzione dell'acqua nei nostri comuni? E abbiamo svolto una sorta di indagine che adesso vi illustrerò per sommi capi. Un attimo solo. Sta ragionando anche lui. No? Intanto voi preparate qualche domanda da fare a lei. È pronta. Conosce? Sì, sì, era solo, finisce sempre. Il programma è molto alto. Sì. E questa, no? Abbiamo cercato di svolgere un'indagine su un campione di comuni della nostra provincia. Noi, il gruppo che se ne è occupato è un sottogruppo del Comitato Provinciale Acqua ed è composto da persone che operano qua, che abitano nell'Olgiatese, quindi abbiamo scelto come campione alcuni comuni dell'Olgiatese. Abbiamo cercato di analizzare la situazione dell'acqua potabile dalla captazione, quindi dal pozzo, e poi abbiamo cercato di capire come avviene la distribuzione e poi come avviene l'arrivo di quest'acqua nelle nostre case, in che condizioni arriva. Ci siamo posti qui queste domande. Qual è lo stato delle falde acquifere? Quindi da dove leviamo l'acqua e com'è la fonte? Com'è la materia prima all'origine? Quanta acqua preleviamo e quanta ne consumiamo poi? I nostri acquedotti come funzionano? Altra domanda importante, noi poi vogliamo berla quest'acqua, giustamente Edi diceva preferiamo utilizzare la casa dell'acqua piuttosto che dare i soldi alle multinazionali che poi ci propinano dell'acqua che spesso è peggiore di quella dei nostri rubinetti. Ecco, però ovviamente l'acqua che viene distribuita ai nostri comuni è sicuramente potabile, ma possiamo dire anche che è di buona qualità, e c'è una certa differenza perché le norme che stabiliscono la potabilità ammettono anche che ci possono essere delle sostanze delle sostanze tossiche purché non raggiungano certi limiti, quindi l'acqua può essere sì potabile, ma può non essere di buona qualità. E poi il tutto era finalizzato anche a fare delle proposte, a capire quali erano gli interventi di tipo migliorativo nel caso noi avessimo trovato una situazione non proprio buona. Abbiamo messo a punto un questionario con una serie di domande. Questo questionario l'abbiamo mandato in 24 comuni, come dicevo, della nostra zona, una zona che è relativamente omogenea, sono comuni di piccole o medie dimensioni che vanno da Como verso Varese e giù fin verso sud, verso Appiano. Per un totale questi comuni hanno una popolazione complessiva di oltre 90.000 abitanti, quindi possiamo dire che è un campione abbastanza significativo della provincia, in una zona abbastanza omogenea che è diversa dalla città di Como, dove sapete che utilizzano l'acqua del lago, e è diversa dalla situazione dell'Alto Lago, dove invece utilizzano acqua che proviene soprattutto da sorgenti molto superficiali. Ecco, alla fine siamo riusciti con grande fatica a avere il questionario compilato da tutti i 24 comuni, anche se purtroppo con alcune lacune, in molti casi, in alcuni casi in modo eclatante, ad alcune domande i comuni non hanno risposto. Ora noi stiamo cercando di analizzare meglio le risposte, usciremo con un documento più articolato, con percentuali, con un'analisi più accurata, ma adesso interessava proprio dare delle informazioni di carattere generale. Quasi tutti questi comuni utilizzano acqua di falda, come dicevo, che viene prelevata attraverso pozzi. In passato venivano utilizzate, soprattutto nella parte più a nord della provincia, sorgenti superficiali, ma man mano queste sono state abbandonate oppure vengono utilizzate per altri scopi, non a fine potabile, per esempio a scopo industriale, perché vabbè, le acque superficiali, le falde superficiali si inquinano molto facilmente e c'erano troppo frequentemente degli episodi di inquinamento di tipo batteriologico. Questi pozzi pescano da una falda che nei comuni più a nord si trova tra i 40 e i 50 metri fino a 70 metri, man mano che ci si sposta verso sud la falda si approfonda e si pesca l'acqua a 100-150 metri. Noi sappiamo che però sotto c'è un'altra falda ancora più ricca e quindi possiamo dire che siamo fortunatamente in una zona dove, volendo, possiamo prendere l'acqua da un punto e portarla dall'altro, anche se adesso questo non avviene, i comuni o i consorti sono abbastanza hanno dei bacini abbastanza isolati, cioè collegamenti tra i vari acquedotti ci sono, ma non sono così frequenti. Ah, ecco. Vabbè, niente, non è molto importante, ma invece questo è un elemento molto più importante. Complessivamente questi 24 comuni estraggono 11 milioni di metri cubi di acqua all'anno. Questo è il dato del 2011, sì, ci hanno già dato i comuni il dato del 2011. Di questi 11 milioni, però, meno di 7 milioni arrivano nelle case, quindi vuol dire che ci sono delle perdite. In alcuni casi l'acqua viene proprio pompata e buttata via, questo per tenere in spurgo pozzi che sono inquinati. Però in molti altri casi le perdite sono lungo la rete. Le perdite mediamente in questi comuni sono del 37%, quindi noi buttiamo via il 37% dell'acqua che preleviamo. Se noi facciamo un calcolo poi di questa acqua, quanta ne arriva nelle nostre case e quanto ognuno di noi ne consuma, vediamo che se noi utilizziamo il dato effettivo, cioè i 7 milioni che effettivamente arrivano nelle nostre case, qui si consuma acqua che va dai 150 ai 300 litri al giorno. In alcuni comuni più virtuosi si è più vicino ai 150, in altri più vicino ai 300. La Edi ha fatto vedere la prima diapositiva, prima con i consumi, e qua sotto c'è un riferimento. I dati, a seconda della fonte che prendete, sono un po' diversi, però questa mi sembrava una fonte abbastanza attendibile. In Africa ognuno consuma circa 20 litri di acqua al giorno, in Europa circa 165, nel Nord America, che sono degli spreconi, 425 litri. In Italia siamo al di sopra dei consumi, cioè ne consumiamo più della media europea. Noi tutto sommato ci avviciniamo alla media europea, quindi siamo, cioè, la popolazione di questi 24 comuni è abbastanza virtuosa, cioè non spreca acqua. Se invece noi utilizziamo come numeratore non i 7 milioni effettivamente consumati nelle case, ma gli 11 milioni che vengono prelevati, invece la media si avvicinerebbe di più a quella americana, e quindi saremmo degli spreconi. Quindi secondo, in realtà, quindi non sono spreconi le nostre famiglie, non ci sono sprechi, gli sprechi vengono dall'organizzazione acquedottistica generale, purtroppo. Questo per quanto riguarda l'acqua prelevata. Per quanto riguarda invece poi l'acqua distribuita, abbiamo una situazione molto molto disomogenea. Abbiamo dei tratti di rete acquedottistica nuovissima accanto a dei tratti molto vecchi, e questo provoca spesso delle rotture, quindi favorisce le perdite in rete di cui parlavo prima. Una scena come questa è abbastanza purtroppo comune girando per i nostri paesi. Qua sono litri e litri di acqua che vengono sprecati. Ecco, tenete conto che quando c'è una rottura come questa c'è anche poi la possibilità che nei giorni successivi si abbia un inquinamento della rete acquedottistica, perché l'acqua viene tolta e poi viene riattivata, si ha una depressione, e la depressione porta in rete tutta una serie di inquinanti che poi finiscono nelle nostre case se non c'è un adeguato spurgo. Ecco, la cosa che ci ha un po' meravigliato è che nei comuni non c'è, o meno nella gran parte dei comuni della nostra zona, non c'è una mappa aggiornata della rete acquedottistica. Anche chi ha scritto che c'era, poi ha dovuto ammettere che non era poi così aggiornata e così sicura. Quindi quando c'è una rottura spesso non si riesce a capire neanche da dove arriva l'acqua, dove va, che giro fa, e quindi qual è il bacino di utenza dell'acqua stessa. Velocemente arriviamo alla qualità. Premesso, l'acqua delle nostre falde è ottima, cioè l'acqua di falda è in generale buona, è un'acqua con un basso tenore di nitrati, però si inquina ancora troppo frequentemente poi durante la distribuzione, e quindi in diversi comuni hanno ammesso di avere frequenti episodi di inquinamento batteriologico, sul quale poi devono intervenire con la clorazione, quindi con l'immissione di una sostanza chimica che in qualche modo altera, non solo dal punto di vista organolettico, ma anche da un punto di vista tossicologico, l'acqua stessa, soprattutto se poi viene fatta senza apparecchiature o impianti dosatori efficienti. Ecco, in 5 comuni poi ci sono dei pozzi con un inquinamento chimico che ha avuto origine secolo scorso, negli anni 70, negli anni 80, durante il periodo del boom economico, quando nella nostra zona c'erano le tintorie, le stamperie. I pozzi infatti sono inquinati soprattutto da solventi clorurati, trielina, percloroetilene, sostanze utilizzate nell'industria tessile, e questo inquinamento ancora ce lo portiamo dietro, e alcuni comuni devono spendere parecchio, devono investire molto in impianti di potabilizzazione. Quello che vedete è un impianto di strippaggio per l'abbattimento del percloroetilene, adesso è fermo perché l'inquinamento lì si è abbassato al di sotto della soglia di potabilità, però in quell'acqua c'è ancora una certa quantità di solvente che arriva indebitamente nelle nostre case. Poi c'erano tutta una serie di domande su quanto costa gestire un acquedotto, e subito dopo delle domande su quanto i comuni investono per questi acquedotti. Ecco, questa è stata la parte su cui i comuni hanno glissato. Non tutti, non si vuole dare la patente di buoni e di cattivi, però molti comuni non ci hanno risposto, ci hanno risposto in modo evasivo. E questo, a nostro avviso, per nascondere il fatto che la gestione, cioè non c'è una gestione molto attenta delle reti acquedottistiche, e le spese di gestione variano negli anni a seconda dei danni, a seconda degli incidenti, a seconda delle reti che si sono ammalorate, e gli investimenti vengono messi nel piano triennale, o come si chiama, che il comune è costretto a, per legge, deve predisporre per legge. Questi investimenti li si mettono ogni anno, poi se non è successo niente non si spendono, se è successo qualcosa allora l'investimento viene attuato. E questo punto è questo. A differenza di altri settori, noi abbiamo notato che qui non c'è ancora la cultura della programmazione e dell'investimento negli anni, in modo efficiente, in modo da tenere una rete sempre in buono stato. Infine abbiamo chiesto quanto veniva fatta pagare l'acqua. Anche qui abbiamo avuto delle risposte molto diverse da comune a comune, non c'è un'omogeneità, si va da comuni che fanno pagare 0,15 euro metro cubo per un consumo base di 100 litri, a comuni che fanno pagare 0,55, e comunque tariffe abbastanza basse, però disomogenee da comune a comune. Io ho concluso per dire che da questa indagine viene fuori che esistono delle problematiche serie. Le problematiche ci fanno dire che noi abbiamo questo bene da difendere, ma dobbiamo mantenerlo pubblico, ma dobbiamo sapere anche che questo bene ha un costo, è un bene che dobbiamo tutelare, perché altrimenti poi facciamo il gioco di chi lo vuole privatizzare, nel momento in cui l'acqua che arriva nelle nostre case arriva scarsa quantità, non arriva sempre perché ci sono guasti, o arriva di cattiva qualità, facciamo il gioco di chi dice va bene, allora diamolo ai privati che loro sono bravi e rimettono tutto nuovo e poi ce la faranno pagare non 0,50 euro, ma i costi ovviamente saranno maggiori di quelle che noi adesso paghiamo per l'acqua in bottiglia. Ho finito. Sì, le presentazioni sono finite, se sono domande, considerazioni. Questo è quello a cui facevo riferimento, che è data mandato ai vari comuni. è stato mandato a fine 2011, nell'autunno 2011. Tutti i comuni hanno visto sporto, chi più chi meno, io ero un po'. Tutti hanno risposto alla fine. Gli ultimi questionari sono arrivati da poco, dopo solleciti, dopo telefonate, dopo contatti personali, però alla fine sono arrivati. Fine 2011. Sì, fine 2011. Per questo i dati dei consumi, in alcuni casi, molti ce li andati già con l'assestato del 2011, alcuni risalgono al 2010, però le differenze non erano molte. La considerazione che ha fatto lei, due considerazioni, uno sullo stato dell'acqua potabile della nostra zona, sicuramente è una delle migliori sicuramente nella nostra zona, e l'altra è il basso costo dell'acqua in rete, perché obiettivamente il 0,16, 0,15 che lo facciamo pagare noi copre a malapena le spese, per cui i comuni si devono sobbarcare le spese di gestione, che non sono poche, e soprattutto devono programmare gli investimenti, per cui rincorrere le varie tubazioni, programmare le... E qui sta il gioco che diceva lei, che se la buttiamo via, e buttiamo via oltre il 35-37%, è chiaro che facciamo il gioco di chi alla fine ci dice se lo gestisco io, lo gestisco meglio, metto a posto le reti e poi le faccio pagare, perché ultimamente i nostri comuni sono dei colabroni. Che sulle tariffe c'è anche da considerare una cosa, che fin quando non era approvato il piano d'ambito, i comuni che non potevano aumentare più di tanto le tariffe, e le tariffe sono ferme con piccoli aumenti da una vita, cioè era un circolo virtuoso, no? Per cui erano tutte spinte per privatizzare comunque, perché poi se privatizzavi poteva essere fatto la tariffa che andava a coprire tutti i costi, più la famosa remunerazione che si parlava una volta approvato sempre questo piano d'ambito. Vabbè, il problema è che si diceva nessuno ci deve guadagnare su un bene così prezioso, però anche i comuni che poi ricevono sempre meno fondi, insomma qualche problemino c'era. C'erano poi i fondi fermi in regione, i fondi fermi presso l'ATO, che una volta invece approvato il piano d'ambito si sono sbloccati, è stato chiesto ai vari comuni quale necessità avevano, quanto chiedevano, e poi non mi sembra che siano stati ancora assegnati, so che i comuni hanno fatto le richieste. Anche il problema della tariffa, a parte che viene sempre detto che no, i servizi devono essere tutti coperti, i costi, no? Anche nell'approvare il referendum, la nostra Corte Costituzionale ha detto che sì, togliamo la remunerazione nel momento in cui, sempre nell'ottica però della rilevanza economica, come è stata chiamata in Italia, a questo punto è sufficiente la copertura dei costi, non deve esserci per forza un ricavo, un guadagno. Se invece non fosse di rilevanza economica, scusate, noi paghiamo già le tasse, non vedo perché poi i servizi li dobbiamo pagare completamente, non, cioè, va bene. In ogni caso, questa copertura dei costi si può avere in tanti modi, nel senso, quello che si era detto, diversificando ancora di più la tariffa, chi usa, insomma, fino ai famosi 50 litri, che però abbiamo visto che in Africa neanche hanno quello perché arrivano a 20, che sono stati determinati per poter vivere quel minimo, no? Senza sofferenza, non far pagare niente o quasi niente, più si consuma, ma proprio perché ora per queste diversificazioni ci sono, ma minime. Chi la usa per farsi le piscine o altre cose, spariamo fuori, cioè la paghi cara, magari non la usi neanche poi per farti la piscina a questo punto. Cioè, ci sono i modi, ci sono tanti modi, e ovviamente poi c'erano questi fondi che devono essere dati, e ci sono tutta una serie. Come forum dell'acqua pubblica noi avevamo questa proposta di legge di iniziativa popolare, che è partita prima del referendum, perché si è cercati con altri metodi, no? In cui che veniva visto come il recupero delle risorse. Certo, appunto, come la coperta è corta sulla nuova situazione a livello provinciale, è corta anche sui fondi. È vero che i soldi non ci sono, però vediamo come li spendono per altre cose. Vabbè, per fortuna adesso compriamo qualche aereo in meno, perché li stavano comprando non so quanti aerei, ne hanno presi meno. Cioè, a volte sono scelte e ci sono, adesso il problema c'è. Comunque anche questa tariffa può essere sì, effettivamente bassissima, però c'è modo di modularla. Non che per forza tutti dobbiamo pagare tanto, per quale motivo? Se la consumiamo nel modo giusto, ne consumiamo poco, non che paghiamo poco perché per litro diventa poco, paghiamo poco al litro, più ne consumiamo più andiamo a pagare, è anche un modo di disincentivare l'abuso poi comunque. Questo della, di fare le tariffe. Ci sono tanti metodi comunque. Sì, ma resta il fatto che noi acquistiamo l'acqua a una determinata cifra, compriamo 100 litri, ne utilizziamo 65, perché ne mandiamo gli altri 35 li buttiamo via perché li perdiamo sulla rete, eccetera, eccetera. Il costo dell'acqua che preleviamo, che andiamo ad acquistare al consorzio di XY, Non basta nemmeno per coprire il costo dell'acqua che mettiamo in rete. Questo, però ci sono altre zone in cui, quando è stato preso in mano, è stata gestita bene, sono stati anche fatti i lavori, queste perdite non ci sono più, e sono riusciti a farlo. Ma non nei nostri comuni, cioè. Sì. Qua nella vostra zona. Ma noi adesso, in teoria, nel momento in cui avremo questa società di gestione, la nuova società di gestione dovrebbe andare a vedere dove funziona e dove non funziona. Io ovviamente ho sotto a livello provinciale situazione peggiore. Io vado nell'ambito locale, lo sai che nel momento in cui lei trova la perdita per strada, sono giorni che sta andando l'acqua lì, per cui si interviene rapidamente, ma sono giorni. Tubazioni vetuste, tubazioni in ferro che risentono di scariche atmosferiche, eccetera, eccetera. È un disastro, un disastro. Il 35% dei nostri comuni è ovvio. Bisognerebbe fare un intervento. Ecco, io ho sottolineato questa questione degli investimenti, perché effettivamente se si investe una volta per tutte, si spende tanto all'inizio, ma dopo i costi diminuiscono, costi energetici, perché non è soltanto l'acqua che si spreca, ma l'energia elettrica per pomparla, che è soprattutto quello, poi il costo in più, la ricerca, eccetera. Però, visto che qua ci sono degli amministratori, è importante anche, gli amministratori sono qua perché sicuramente sono i più sensibili e quindi a loro magari questo discorso non andrebbe fatto, però è vero che anche parlando di cittadino comune, se io vedo una buca sull'asfalto, vado in comune e protesto perché voglio che mi venga riasfaltata la strada. La buca nel tubo dell'acquedotto non la vedo e non mi interessa e non protesto. E l'amministratore quindi non ha un interesse primario a rattoppare il tubo dell'acqua o della fognatura, perché tanto nessuno la vede e nessuno protesta. Quindi è anche un discorso di tipo culturale che noi dobbiamo cercare di fare, così come noi andiamo nelle scuole, andiamo in giro a dire non sprecate l'acqua, mettete i filtri che riducano i consumi, se vi lavate intanto che vi lavate i denti, chiudete il rubinetto, intanto che vi fate la barba, chiudete il rubinetto. Andiamo a dire queste cose al singolo individuo, a maggior ragione dobbiamo dire agli amministratori rattoppate le tubature. In un comune hanno ammesso di avere ancora dei tubi in amianto, in un comune ci sono delle tubature in PVC che sono state messe a bando, non si usano più, eppure hanno, non è vietato averle, però la qualità dell'acqua sarà pure potabile, ma sicuramente non è buona, non è ottima. Quindi è un discorso di cultura generale, di cultura della popolazione, di cultura anche di tipo amministrativo, cioè capire quali sono le priorità in un comune, non sono soltanto le strade, la bucciofila, ma sono anche l'acqua, le fognature. Sono d'accordo con lei, sono proprio di una data perdita, per me è come se mi portassero via la benzina, divento matto, domani mattina quel tubo lì deve essere riparato. Ma si capisce? Sono le opzioni vecchie, invece deve essere guasta uno ogni 10 minuti. C'è la cultura, la mentalità di investire su queste cose. E dei comuni l'hanno fatto. Sì, non ci vogliono. In provincia, perché la provincia di Como è molto varia. Provincia? Noi paghiamo l'acqua a 16 euro al metro cubo. La mettiamo in rete, la facciamo pagare i nostri cittadini 16 centesimi al metro cubo. 16 euro era... Pari. Non ce n'è. Cioè, il 35% la buttiamo via, perché non ci vuole molto. E compriamo 100 metri cubi, si va a vedere i consumi di tutta la popolazione, sono 67, 35% la buttiamo via, non ce n'è. Per cui la perdiamo nelle intubazioni. Bisogna intervenire su quelli lì, ma ci vogliono, si interviene poco, a volte si fa la tubazione principale, una, ma cioè, nelle strette economiche dei vari comuni. Allora, gli diamo i soldi alla scuola o cambio il tubo? Cioè, non è che facciamo una rapina in banca, va bene, allora troviamo un po' di soldi. No, non c'è. Coinvolgere la cittadinanza. Coinvolgere la cittadinanza e far fare le scelte. No, perché penso che è un aumento. Io credo che aumentare la bolletta risolva il problema del rifare la rete. Guardi, io vedo il capo di famiglia, cioè, deve aggiustare sui soldi che prende, no? Cioè, non è che deve un po', questo lo spende per questo, l'altro lo spende per l'altro, se ne ha oculatamente magari riesce a investire anche quello. Nel, in questo campo dell'acqua siamo, i nostri comuni, a pari, se non addirittura sotto, perché poi abbiamo i costi di gestione, le pompe e quant'altro, l'idraulico, eccetera, eccetera. Per cui il costo sicuramente è piatto, zero, questo è il punto principale. Io non sono per aumentare a però la base è che la facciamo pagare poco per quello che ci costa. Beh, quindi per voi diventa importante che questa nuova società di gestione, che coinvolge ovviamente, che mi sento nella provincia, sia fatta bene. Ma questo è sicuro. Quindi... cioè, ma il problema è che ci devono, io ci devo mettere mano, se delego un altro è quello. Va bene, però bisogna anche tener conto che è stato previsto, e questa è anche una nostra richiesta, che qualsiasi decisione prende l'amministrazione provinciale deve prima sentire la conferenza dei sindaci con parere preventivo e vincolante. E quindi è importante partecipare da parte dei problemi del territorio, cioè qui parliamo della pubblica. Quindi ci vorrà un'analisi, ci saranno delle scelte, ma già la partenza di questa società, perché se questa società parte male, che non si capisce che cos'è, partiamo già proprio malissimo, almeno partire con le fondamenta giuste, questo, che abbiamo delle buone fondamenta su cui costruire, poi ovviamente sicuramente, ma poi ci sarà, come dice, come viene detto, il piano industriale, quindi bisognerà fare un rilevamento sulla provincia, quali sono le situazioni, le necessità, bisognerà prevedere come fare gli investimenti, il lavoro di fare, come reperire i soldi, e la tariffa sappiamo che deve essere decisa dall'ufficio d'ambito tenendo conto di tante cose. Noi abbiamo chiesto audizioni a tutti, proprio perché questa cosa ci sta molto a cuore, che sia fatta bene, anche come siano modulata la tariffa. E poi esistono anche, sappiamo, la tariffa di scopo, no? Quella, però anche in questo caso, nel momento in cui, a prescindere adesso dell'acqua, qualsiasi lavoro che riguarda appunto questo nuovo metodo, che però non è ancora fattibile perché deve avere un regolamento di attuazione, se sbaglio, comunque deve avere qualche aggiustamento. Prima di applicarla va fatto capire alla popolazione cosa si vuol fare, cosa servono questi soldi che dovranno tirare fuori in più, per quanto tempo e quale riscontro ne avranno. Di solito quando viene fatto un buon lavoro, poi la popolazione, se ha un qualcosa di positivo, a prescindere poi dall'acqua, può essere qualsiasi altra cosa, è contenta, non è, anche se magari è un impegno maggiore. Adesso l'abbiamo visto... Mi piace dirlo, ma la risposta l'abbiamo in questa assemblea, cioè... un'assemblea pubblica, invitati non so quanti cittadini, quanti, cioè, ci si conta qui, quattro gatti. Per cui un bene così primario snobbato. Gli aumenti la tariffa, domani mattina sono in comune a protestare. Ecco, quindi, però ci sono tanti modi. Allora, lasciando perdere gli opuscoli che sono un costo, stiamo parlando di risparmi, no? Quindi vabbè, i volantini che vanno nelle case, parlarne nella scuola, perché per bambini ne parlano a casa, a livello ovviamente, ci sono i diversi livelli, no? Alle superiori, chiedendo anche ai sindacati di parlarne sui luoghi di lavoro, perché se non viene, la gente non viene, è il comune che deve andare dalla gente, e viene fatto in tanti posti, è stato fatto su altre cose. Adesso per esempio Maslanico, sono messo insieme da Maslanico e Generario, hanno fatto il riciclo dei rifiuti anche con l'umido e tutto, che vuol dire un impegno maggiore per la popolazione. Sono andati a spiegarlo, li hanno coinvolti, gli hanno fatto capire che è una cosa di cui possono essere orgogliosi, e subito è andata la percentuale di riciclo molto alta. Quindi certo, sembra così, è vero, non troppo che gente spiace a tutti, perché stiamo parlando di una cosa importante, però ci sono altri modi, soprattutto appunto andando nelle scuole e coinvolgendo i sindacati, però qualsiasi sindacato, anche quello piccolo di due persone, che però hanno agibilità nei posti di lavoro e possono fare qualcosa nelle assemblee, nei documenti, nelle mail, e quindi colpire in vario modo le diverse persone nelle diverse situazioni. Okay. Vabbè, certo, se poi si riesce a fare anche un opuscolo, perché gli opuscoli costano, non so, nel volantino, però uno che lo prende lo butta lì. Bisogna proprio fare in modo che si sia ascoltati, e ci sono i metodi, ci vuole un po', ecco, di fantasia, o sentire altri comuni che già l'hanno fatto. C'è uno scambio tra, quando c'è la riunione dei sindaci, forse chi ha fatto le cose, anche parlarsi forse un po' di più, però molti non vanno neanche, anche quando c'era l'assemblea dell'altro, non è che tutti andassero, Cioè, non è solo la popolazione, spesso anche il rappresentante istituzionale è il primo che viene a mancare. E anche in questa storia alcuni sono interessatissimi, alcuni ci tengono, altri che basta che non mi ci fate più pensare, va bene qualsiasi soluzione. Quindi è un discorso abbastanza, anche perché appunto, come ha detto lui, non porta voti. Nel senso che non si vede il lavoro della tubatura, mentre si vede se uno fa, non so, un campo di calcio, che ci sta anche per magari per i bambini, proprio quello lo vedi. Ecco, se il momento in cui quello lo vedono subito, sicuramente. E vedete, se non venite alla riunione non avete più l'acqua nei rubinetti per una settimana. A questo punto arrivano tutti. No, è venuto, arrivano e fanno: bene, siete venuti, adesso vi spieghiamo cos'è l'acqua pubblica. No, è molto difficile, questo, anche noi ne siamo coscienti, no? Si fa di tutto, si fa da stasera, poi si fanno altre cose, e noi ci siamo abituati proprio a, stancandoci molto, a fare di tutto, qualsiasi situazione. Parlo, voglio dire, fa piacere l'impegno che ci metti a altri, ci metti a fa piacere l'organizzazione, che ognuno di noi è una fatica tremenda, da esaurimento. Faccio fatica a dire di chiudere il rubinetto al dipendente, chiudi col rubinetto, non lo fa, No, ma tanto per lui, tanto qui di acqua ce n'è tanta, non manca proprio. Il primo, glielo tocca. Volevo solo fare, è un argomento estremamente complicato e non semplice da capire da un punto di vista soprattutto tecnico, anche per gli amministratori. Per cui c'è, come per i cittadini, una delega così a scatola chiusa agli amministratori, anche gli amministratori poi alla fine delegano a quei 4-5 del lato, ex ATO, che poi decidono a maggioranza. Poi c'è il comune di Como, Cantù, Mariano, hanno già fatto ormai la percentuale sufficiente per poter deliberare, e il comune di Uggiate, Gironico o Trezzo, che ha 1000 abitanti, conta lo 0,01%, è chiaro. Vabbè. È chiaro che bisogna essere d'accordo su una visione globale del ciclo dell'acqua, per cui quando si parla di acqua è giusto, secondo me, che si parli anche di depurazione, tant'è che nella tariffa dell'acqua c'è il costo della depurazione, che è il doppio rispetto a quello dell'acqua, quindi in sé quello che noi paghiamo è maggiorato della depurazione. E questo è estremamente importante, perché se vogliamo bere acqua pulita bisogna che scarichiamo alla fine del ciclo acqua pulita, insomma, e che non vada a sua volta ad inquinare il lago, i corsi d'acqua, piuttosto che altre cose. Quindi è chiaro che l'amministratore è d'accordo, chiamato a intervenire su un problema fondamentale, primario come l'acqua, ma poi alla fine deve prendere delle decisioni. E quindi faccio un esempio: noi siamo stati tra i primi, noi nel senso Comune di Uggiate e altri limitrofi, ad associarsi in consorzi ancora in tempi nei quali non c'era nessun obbligo, e costituire per esempio il primo depuratore. Ultimamente nei primi miei mandati abbiamo speso qualcosa come 3 miliardi di lire, vecchie lire, per poter ampliare, rendere efficiente, efficace la depurazione della Val Mulini con 5 comuni associati. Abbiamo investito, abbiamo deciso come acquedotto di collegarci in rete con quei 5 altri comuni che costituivano il consorzio acquedotto, per poter far sì che nei casi di inquinamento, come dire, disfunzione o carenza di acqua in un comune, l'altro potesse sopperire attraverso l'apertura di valvole che potessero dare, perché l'acqua ci si rende conto del valore quando non c'è, è chiaro, altrimenti nessuno si preoccupa di quello. E quindi è chiaro che un investimento come quello, decidendo insieme di fare un altro pozzo ad Albiolo, nel nostro caso, che è costato quel che è costato, stendere delle reti e quando di collegamento, una dorsale di collegamento che potesse dare acqua a tutti i 5 comuni, se poi fosse Rodolo ancora isolato, ma Rodolo ha la sua collocazione particolare. Quindi sono stati investimenti che agli occhi della popolazione, della gente, non sono parsi immediati, che si facevano sulla Lomazzo Bizzarone, si facevano ad Albiolo, in altri comuni, non sapendo che si lavorava per noi. Abbiamo scelto di fare un pozzo, per esempio, ad Albiolo, perché i costi di gestione del nostro acquedotto, che doveva pompare l'acqua dalla quasi da Val Mulini, dal Trevano inferiore fino al Colle di Somazzo, aveva un costo esagerato di energia elettrica. Allora si parlava di 100 milioni di lire di energia elettrica all'anno solo per pompare l'acqua al serbatoio di accumulo e di distribuzione di Somazzo. Quindi vedete che alla fine del buco nel tubo, è chiaro, si interviene nel momento in cui viene su, e più delle volte sono mesi che sta lavorando sotto e alla fine esce, no? Questo è un po'. È vero che sappiamo di alcuni tratti che hanno un certo, sono obsoleti o hanno un po' di anni. Devo dire che il nostro comune, bene o male, in questi anni si sono fatti degli interventi di rinnovamento delle reti, però faccio presente che le difficoltà non sono poche. I ricavi sono quelli che ha detto, cioè bloccati i costi dell'acqua da anni, insomma, credo una ventina d'anni, salvo qualche leggero 0,01 centesimo eccetera, approvati dal comitato, perché chiaramente c'è tutta una procedura che credo che per chiedere l'aumento bisognava far lavorare l'ufficio per quanti mesi, non lo so. Credo che sia importante per i nostri comuni soprattutto questo collegamento, no? Che poi si chiami ATO, ufficio d'ambito, non so, cioè è necessario che i comuni si parlino sempre di più e siano sempre di più collegati, soprattutto per fare da come dire, supporto nel caso in cui ci siano difficoltà. È necessario che, secondo me, si agisca sulla popolazione in maniera che la capisca il valore in sé dell'acqua. E tante volte ci domandiamo, ma forse l'unico modo per far capire alla gente che l'acqua è preziosa è quella di farla pagare. Anche alla luce della, che poi non è giusto perché c'è il minimo vitale, c'è il genere qui e là e su e giù, però effettivamente quando andiamo all'estero, noi siamo gemellati con un comune tedesco, di Adria, nel centro della Germania, e hanno acqua, allevano le carpe nel nostro comune, nel comune gemellato, per dire quanti, è a 35 km quadrati di superficie, quel comune gemellato con noi. Quindi di acqua ne hanno davvero, sono già arrivati al punto da obbligare tutte le case nel regolamento edilizio di obbligare le case nuove e dare incentivi alle vecchie di riutilizzare le acque piovane, quindi la raccolta delle acque piovane in sottotetto con dei vasconi di recupero piuttosto che nel giardino con le pompe che pompano acqua nei cessi, scusate, perché abbiamo visto che il 50-60% della nostra acqua potabile va a finire, scusate, ancora nel cesso. Allora, i tedeschi, che di acqua ne hanno molta più di noi, hanno già stabilito che le case nuove devono avere il loro sistema di riciclo dell'acqua, perché quella lì è acqua, non è importante che sia potabile, ma basta si riceva, non solo, ma sono arrivati al nostro comune anche a far filtrare l'acqua piovana e utilizzarla, farla utilizzare anche per la doccia. Ovviamente uno sta attento a non bere bicchierate d'acqua, ma comunque non è come dire, inquinata a tal punto, perché viene filtrata con un minimo di, e si usa anche nella doccia. Quindi in più i costi a metro cubo sono in ragione del 2 euro a metro cubo. 2 euro a metro cubo, noi siamo a 0,60 compresa la depurazione, no? Compresa la depurazione, quindi ai limiti anche noi più o meno siamo simili. Quindi voglio dire, e non c'è nessuno che si preoccupa, ma in Germania si preoccupano a non far uscire dal rubinetto la goccia che alla fine fa i metri cubi al giorno, perché la goccia, dovete immaginare che fa i metri cubi, no? E sembra impossibile, ma è così, ecco, si preoccupa anche di quello. Noi d'estate, ai tempi quando avevamo e soffrivamo e si faceva l'ordinanza di non utilizzare l'acqua per bagnare i giardini, lavare le macchine, regolarmente c'era gente che se ne fregava. Perché mi paghi tasse, l'acqua la paghi, sì, te la paga 0,65 centesimi, in questo momento non ce n'è. Vabbè, questo è una parentesi, però voglio dire, questo non giustifica il fatto che l'acqua sia comunque un bene prezioso, sia comunque da mantenere pubblica, quindi le sorgenti, le reti sono di proprietà comunale, devono restare di proprietà comunale. La gestione su questo, io dico, avendo noi delle realtà comunali estremamente piccole, con personale sempre più ridotto, è evidente che si debba andare a, come si fa l'appalto per la manutenzione del verde, si fa magari la gestione a delle strutture specializzate, ma sotto il nostro diretto controllo, cioè le tariffe le stabiliamo noi, quello che il lavoro che tu devi fare te lo quantifico io, e l'ATO finalmente dovrà dirci qualcosa, spero che siamo in attesa. La società di gestione deve tener conto, sicuramente fare prima anche un rilievo sulle situazioni, certo. E ci sono già comunque delle gestioni a livello provinciale che funzionano, in cui non ci sono tutte queste perdite, in cui sono in pareggio e non hanno problemi, altre che hanno problemi e lì bisognerà intervenire, però questo non vuol dire vuol dire anche utilizzare la ricchezza che già c'è di professionalità, perché ce n'è, e vuol dire pianificare da dove entrano e da dove escono, cioè è un discorso abbastanza complesso, quello che appunto viene chiamato il piano industriale, che non è una cosa che si può fare in un mese. Non vuol dire poi non utilizzare anche quel personale che già c'è, perché conosce il territorio, tra l'altro, ecco, quindi questo non vuol dire neanche che va dato in privati, sono due cose diverse. La gestione può essere appunto pubblica attraverso un in-house che poi farà tutti i conti, avrà il suo bilancio preventivo, sì, consuntivo, come secondo me la situazione che noi abbiamo nella nostra zona non è quella che c'è stata in Italia negli ultimi anni, che c'è stata una privatizzazione selvaggia dove le aziende come la CIA si portavano a casa miliardi e miliardi senza cambiare neanche un tubo. Cioè c'era la mia amica di Bologna che pagava, io pagavo su a Faggeto, dove ad agosto portavano sulle cisterne perché c'erano anche tutti i villeggianti e tutto, e pagavo 100 euro l'anno di acqua. La mia amica a Bologna a parità di consumo pagava 700. Quindi, cioè, quando ho fatto di quelle cose che noi sulla nostra pelle non le abbiamo, quindi anche gli dico aumenti anche del doppio la tariffa e riesci a sistemare qualcosa, ma a noi va benissimo. Il problema è non arrivare a dare dei soldi a un privato che non fa un cazzo e che magari si porta a casa i miliardi. Perché su questa remunerazione la privatizzazione che in questo momento ci sta fregando, euro, che tutti diciamo la privatizzazione è migliore, ma non è vero, magari a me costa, cioè lo fa vedere a report tutte le sere, cioè sulla non privatizzazione risparmiano a tenersene in mano. No, ma quello non può essere, perché nella nostra costituzione non possono essere privatizzate. Su quello non c'è problema. noi parliamo della gestione, che è il livello in più. Sentimenti, se il comune, quando il calzone è troppo grosso... Ma quello è il problema, che è a livello provinciale... Anche negli anni Ottanta ce ne hanno fatte tante. Il problema... Cioè, il calzone è grosso, la nostra zona 0,5, cioè 5-6 comuni qua. Sì, sì, sì. 0, Como, Erba, Cantù, fanno la voce grossa. Non li guarda neanche i sindaci che si presentano della zona, eh. Per quello che non ero contro questa situazione dell'ufficio d'abito, perché mentre prima ogni comune era un voto, adesso invece il comune è proporzionale agli abitanti, e questo è vero, noi eravamo contrari proprio per questo motivo, perché si dà anche poi con l'ufficio d'abito c'è una rappresentanza, ma la rappresentanza è, sappiamo bene, non è, insomma, è quello che è. Quindi anche per quello che l'audizione a livello regionale, perché volevamo che queste cose venissero modificate, perché poi il comune piccolo non conta niente, anche se ha il suo rappresentante presso l'ufficio d'ambito, perché da 0 a 10.000 c'è un'unità, da 10 è tutta un'altra cosa. Quindi è che in Regione Lombardia abbiamo questa legge, per ora in questa ci si deve muovere, si sta cercando di tirarne fuori il meglio possibile. Il confronto con i tedeschi è una cultura, è un problema proprio culturale, perché è da una vita che in Germania non si fa la visita oculistica per la patente, si dichiara quanto ci vedi, ma se ti beccano che hai dichiarato il falso, finisci dentro se non pede. E quasi nessuno li dichiara il falso su questa cosa, eh. Ma anche là dichiarano le tasse e ci credono, noi gli dichiariamo le tasse, quindi noi in Italia effettivamente abbiamo un problema culturale, e che siamo 100.000 teste, non c'è niente da fare, è così. Allora, infatti, so che molte scuole elementari adesso il discorso dell'acqua sono gli stessi insegnanti che lo stanno facendo, perché veramente il futuro sono i bambini, se iniziamo a insegnarglielo adesso, che appunto io ho l'acqua, ma più ne uso, più sporco, più devo andare a depurare, più costi, più energia, più, cioè far capire le conseguenze delle azioni, cioè che siamo responsabili di ogni nostra azione. Questo è il problema culturale di base che lo riguarda. Ha toccato un punto nevralgico, il fatto che chi gestisce l'acqua deve gestire anche la depurazione, certo, che è più importante che gestire l'acqua. E quello, quello far capire la conseguenza. La depurazione non la vuole nessuno di quelle società lì, non lo vuole nessuno. Gli dà tutto fastidio, cioè, sono costi quelli lì, l'acqua invece la pagano, come sì, apre e gira. La depurazione invece sono costi enormi, enormi. E però meno ne consumiamo, più o meno depurazione c'è. L'acqua piovana nelle reti, eccetera, eccetera. No, ma anche quello è... ma come adesso dovrebbe essere fatta la divisione, no, degli scarichi? Da anni si dovrebbe fare, la fognatura miste. E quel vicino che prende la foglia la butta a terra, cioè vicino. E però dobbiamo almeno iniziare, no? No, stiamo già andando. Sì, sì. Solo che è quello che non si è fatto da quando? Cioè non possiamo, dobbiamo vedere appunto i progetti, si dice a breve, medio, lungo termine. Vogliamo risolvere noi il problema è informatizzare soprattutto i giovani, sì, e quello poi si perdono per strada, perché sono da scuola, sono bravissimi, poi si perdono 13, 14, 15 anni, pezzi. Vabbè, ma quella è l'adolescenza, poi li recuperiamo con l'università. Però come noi. Volevo dire una cosa, guardo, secondo il mio punto di vista non è vero che i comuni piccoli contano poco, certo, il numero grande, però se si è presenti, vengono segnati tutti, sempre presenti, cioè, si comincia a conoscere le persone, si comincia a capire come, diciamo, io sono sindaco di Gironico, sulle fognature, sto facendo due tratti di fognature e prendo un contributo provinciale, però perché vado, sento, sto sistemando l'acquedotto, ho messo il biossido, 50.000 euro, io vado giù, gli lascio il progetto e dico, se va di Danè, ma ho detto, se no fu la voce. Mi è arrivato su, dai 55-60.000 spese, 21.000 euro, per dire. E bisogna, dopo certamente, delle volte va buca, però se non si va, se non si conosce, se non... bisogna giù per le scatole. Io sono venuto il mattino 8:30, quando mi capita chiamo il consigliere provinciale Poi bisogna fare così, se no è un lavoro e basta. noi adesso dobbiamo fare un marciapiede, l'isola SP19 per la montagna per Rio Gironico, è 3 anni che siamo in ballo, infatti la gente dice, ma sto marciapiede, qui c'è, ma sì, allora prima di tutto dobbiamo atterrare le linee elettriche e telefonica, e poi siccome c'è la provincia, il sottoscritto è andato giù e ha detto, c'è la provincia, dovete darci qualcosa. Ti ricordi quando abbiamo fatto quello da Giro al Parè, non ci è andato niente, ci hanno dato 3 tombini da mettere lì. E io l'ho lasciato giù, allora diciamo, allora aspetta, ci ha dato il 50%. Allora, con i soldi che facciamo il marciapiede, ho sistemato l'acquedotto e un tratto di fognatura. E anche lì bisogna cercare di lavorare. È un lavoro. E starci dentro, perché sennò se te stai lì come una speciale che se i soldi servono per un'altra cosa che voglio dire riguardo le perdite, il 90, perché io sono proprio un patito di quelli quando sono diventato sindaco in cerca perdite ne abbiamo fatte la marea, il 90% è l'incuria che sono state quando ho messo i tubi che si è parlato di Sassici. Tutte le perdite, il 90%, perché c'è lì dei sassoni, cioè quando ha messo le reti o quando le hanno aggiustate, non mettono diciamo, la sabbia, tutto quello che è per, e lì c'è sempre lì quello che è. E poi un'altra cosa riguardo le perdite, quando si apre il buco, che non è, ci sono le saracinesche lì, tutte ruggini. È capitato l'anno scorso in centro paese una piccola perdita con 500-800 euro da sistemare, apro e no, chi ha speso 7-8.000 euro? E c'è, perché c'era lì tutta una serie di cose arrugginite, coperte, e io non ci ho pensato 2 volte, no, facciamo, che io non faccio così, mi interessa, non faremo altre cose, queste qua cominciamo a sistemarle. Perché io potevo dire, va bene, se è fatto, no, niente, sono stato 8.000 euro. Abbiamo dovuto fare l'ordinanza perché non c'era l'impegno di spese, tutta questa cosa. Cioè, bisogna fare così, se no, se sa un più. Bisogna, certo che è difficile, come hai detto tu, la situazione non è che... La presenza sul territorio, però, quello... cioè, penso che qui, guardarsi intorno... 20 comuni, 20 amministratori o 30 amministratori e gli altri cittadini. Lo si tocca semplicemente quando gli arriva la tariffa che, oh no, poi ti abbiamo aumentato l'acqua, ma se te la butta via, per forza te l'ho aumentata, la butti via. E vai ad andare là di lì, vai a non bagnare il prato perché sono mesi che non piove, poi mi paghi il tasso. Questa è la risposta. E ti insultano. Qua se te la rilasciamo una volta, te la voti più. Ma sai cosa me ne frega a me del tuo voto che mi perdi il maltempo? Questo è il problema nostro, sensibilizzare la gente, cioè tutti i limiti sono lì, e stai attento, guarda lì, guarda là, e poi se ne frega, ma sai, perde anche la. Io noi sono tempo perso, quello è tempo perso, io ne faccio pensionare, invece di andare al bar, faria quelli che ci mi tocca, e questo è un po' il adesso non dico no, però questi sono i problemi reali, problemi, cioè, se si scontrano questi problemi reali. Adesso si stava parlando lì di Ato, di Aus, di San Cusè, risolviamo il mondo, ma domani mattina devo andare a riparare il tubo. Questo è il problema. E devo trovare 500 euro per riparare quel tubo. In teoria se ci fosse la società di gestione che funziona bene, si saprebbe dove andare a prendere. La società di gestione alla fine dell'anno. Diciamo, cosa ho speso, cosa ho incassato, aumento le tariffe. Punto. No, vabbè, no. Non dovrebbe essere un ragionamento così automatico. Dovrebbe, però, per quello che dico, signora, quando... Signora, hanno aumentato la benzina, qualcuno va in giro a piedi. Cioè, no. Comunque, dove è stata privatizzata, il ragionamento era questo. Io ti aumento la tariffa fin dove voglio, però in cambio i lavori non li hanno fatti. Quindi, cioè, hanno pagato di più senza avere niente in cambio. Mentre quando è... chi appunto è il comune stesso ha riscontro diretto con la popolazione sta di solito un po' più attento a queste cose. Io sono, ripeto, non sono per la privatizzazione. No, l'ho capito, stiamo parlando di problemi pratici adesso. Sì, per le amministrazioni che tutto il giorno, tutti i giorni si confrontano con queste problematiche, capisci? Cioè, poi sono d'accordo, mi metto nei panni del privato e cittadino, dico, oi, ti abbiamo intalato, oh, l'anno scorso era 16, adesso quanto è? 30, la settimana. Sei matto? Come mai? Come mai? Cioè, capisci? è duro farlo capire come i rifiuti, va là a dire uno che guardi che deve dividere perché il cassone degli ingombranti mi costa X e la plastica invece me la portano via gratis. Però quello che sto dicendo, da Moltrazzo a Genolario l'hanno fatto, si sono messi insieme, hanno fatto questo raccolta differenziata di rifiuti con l'umido. E sono riuscite a coinvolgere, però prima hanno fatto un grosso lavoro faticosissimo di sensibilizzazione. Quel fatto lì sono molto, cioè mi sembra che i nostri paesi sono sensibili, cioè fanno una buona raccolta. No, comunque, c'è sempre da fare. Non c'era, l'hanno è da pochi mesi che la stanno facendo in quei comuni. E sono prima fatto una sensibilizzazione con la parlandone nelle scuole, parlandone in ogni occasione, eccetera, l'hanno pubblicizzata e adesso anzi la gente è orgogliosa di farla. Però sono partiti che la raccolta dell'umido non la facevano, e la raccolta dell'umido non è la cosa più facile, perché è quella che dà più fastidio forse. Quindi sono riusciti a farlo e la gente partecipa, però sensibilizzando prima. E non è l'opuscolo, perché uno può leggerlo o non leggerlo, a parte appunto il costo. È faticoso, cioè nessuno di noi pensa che sia una cosa semplice. La raccolta dell'umido, un dettaglio, nel nostro comune, piccolo comunque, è l'umido, avete un giardino, tenetevi l'umido lì. Se mi tenete l'umido, e io vedo che effettivamente l'umido lo tenete nel vostro giardino, vi diminuisco la tariffa. Poco, con l'adesione è stata altissima. Gli ho toccato la tariffa. E questo è il punto. Se no la portavo là, la buttavo nel sacco nero, la metto lì, quanto mi diminuisce? Poi dopo qualcuno, ma così poco mi diminuisce, cioè non gli va mai bene, però gli va bene, ci si muove, si fa qualcosa, per l'amor di Dio. E si vede che la gay sono più sensibili. Io penso di notte come fare a risparmiare, perché in questi periodi c'è gente che quando dorme di notte va a cercare di risparmiare. È l'umido dell'acqua che già per la il suo lavoro dell'acqua. Poi c'è anche un problema dei finanziamenti, perché un discorso per passare dal problema che si è sollevato al problema più generale. Le scelte politiche che vanno fatte. È chiaro che il modello dei tagli, il modello liberista che punta soltanto col taglio della spesa pubblica, comincia a mostrare la corda anche chi ha operato in questo comincia senso. A mostrare la corda, quella insaponata che la gente si attacca. In tutti i sensi. Mostra tutti quella sensi. Di corda. Per cui, taglia. Per cui è chiaro che se si parla di crescita, vuol dire trovare anche i finanziamenti, anche i fondi per finanziare la crescita. E cos'è la crescita se non il miglioramento delle infrastrutture e quindi il miglioramento dei servizi? È chiaro che questi interventi devono essere finanziati. Appunto, se dalla nostra indagine viene fuori che c'è un problema di razionalizzazione del servizio in termini di conoscenza, cioè mappatura del territorio per vedere come sono fatte le reti, come sono fatti i pozzi, in termini di distribuzione, di interventi sulla rete stessa per sostituzione di tratti, per miglioramenti, eccetera. Ovviamente sono interventi che richiedono capitali non indifferenti, che i comuni al momento non hanno, perché i trasferimenti ai comuni sono stati sempre più tagliati negli ultimi anni. E quindi una battaglia, anche in questo caso, deve essere fatta per far sì che si ritorni a un finanziamento da parte dello Stato ai comuni su dei progetti specifici per il miglioramento delle infrastrutture, perché è una questione sine qua non se si vuole ripartire in termini anche di occupazione, perché interventi di questo genere poi creano occupazione e anche la gestione che non dà, ovviamente non deve tramutarsi nelle carrozzoni di sacchi di inefficientismo come si sono di costi, ti tolgo di qui, ti metto là. Questo è la paura che ho, questa carrozzone qui che si trasforma in un ennesimo carrozzone di un costo di amministrazione pubblica, che non serve a nulla. Sì, ma infatti la scommessa è quella di riuscire in futuro a creare delle strutture virtuose che effettivamente razionalizzino i servizi e che siano efficienti e che siano pubbliche. La scommessa è quella non di delegare al privato perché poi il pubblico non è in grado di gestire. Ah, ma quello vuol dire non soltanto una crescita in termini di coscienza degli amministratori, ma una crescita di coscienza più generale. E però ovviamente questo passa attraverso a delle precise scelte economiche che devono essere finanziate. Poi si è messo il patto di stabilità che è montati su, sono 5.000, siamo a posto, c'è chi quest'anno di spendere tutto, perché così almeno l'anno prossimo stiamo via. Il patto di stabilità, certo limitato, si legge di sindaci che hanno soldi, ne hanno tantissimi e non li possono spendere. La tesoreria unica che è diventata un meccanismo perfido come è stato fatto. Perché devono rispettare il patto di stabilità, quindi deve essere percentuale complicato rispetto alle uscite. Complicato spiegare. È un sistema molto complesso, per cui ci sono comuni che hanno parecchi soldi da parte, ce li hanno, e ne possono spendere di meno di chi li ha spesi male, tra l'altro. Cioè è un meccanismo perverso, va aggiustato. Non dipende, quindi cioè, ci sono tantissimi problemi, proprio dico i problemi che ci sono tantissimi problemi. Se c'è una crisi del servizio idrico, come rifiuti, come servizi, come la scuola, no? Perché è tutto un problema generale che sta cadendo, ma quello adesso appunto non funziona, quindi è oggettivo che ci sono dei problemi. E ognuno cerca di fare qualcosa, adesso noi ci stiamo spendendo in questo, però ognuno di noi può fare anche altre cose, come anche voi che fate i sindaci, cioè si cerca di avere un futuro un po' diverso, un po' di crescita, anche perché pare che i governi, cioè per ora non si capisca la differenza tra non spendere male i soldi e investire. E poi alcune spese, tu sai che poi in poco tempo poi ti danno delle entrate alla ricerca, per dire, cioè ci sono tutte queste cose, sono investimenti, la scuola di investimento non è un costo, no? Quindi è un problema molto forte, molto grosso. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare una mano a che non peggiori la cosa, almeno di avere una parte, delle fondamenta su cui si possa costruire, perché se noi ci perdiamo anche questo non abbiamo più neanche le fondamenta, per vent'anni ci giochiamo tutto. Cercare almeno quello e poi da qui cercare di costruire, perché ovviamente anche il nostro ruolo, quello che noi facciamo, non è solo questo. Però come voi avete una responsabilità diretta e grossa, adesso non si dice, però intanto ci si sente un po' esauriti, un po' stanchi, però si va avanti, non, perché altrimenti... ecco, quindi su questa cosa che almeno ci sia questo fondamento adesso, che parti bene, perché se già parte malata, cioè basta, siamo... non c'è neanche la speranza, ecco, per dire, quindi almeno cercare di avere adesso una società che abbia un senso, che parti bene. E ovviamente noi perché abbiamo chiesto che siano pubblici i passaggi, e per me era importante proprio per evitare quello, che almeno noi stiamo attenti, altri stanno attenti, evitare che diventi un garzone, una regalia di posti, che sappiamo che intanto uno perde un posto da una parte e viene messo in un consiglio di amministrazione di un qualcosa, no? Spesso è stato fatto in tutta Italia. Quindi evitare queste cose, se c'è la pubblicità, se noi stiamo attenti, così magari riusciamo a evitarlo, perché il pubblico può essere d'eccellenza, sa anche funzionare molto bene, quindi perdere questa opportunità. Quindi il fatto che tutti i processi siano pubblici e si vengano a sapere è importante per cercare di evitare queste distorsioni poi di un sistema che potrebbe essere buono. Allora, perché solo l'in-house era costruita? Cioè, l'in-house era... No, l'in-house è il minore dei mali, nel senso che è l'azienda pubblica, la gestione pubblica, che è di diritto pubblico e non deve stare alle norme che regolano un SPA. Cioè, quindi già parliamo d'altro. E lasciano anche più agibilità ai comuni nelle scelte, perché possono utilizzare dei fondi che altrimenti non si possono usare, se no diventa una concorrenza sleale a livello europeo. Però nel momento in cui invece la gestione pubblica in senso assoluto, cioè di diritto pubblico, c'è anche più agibilità da parte del comune, ha più scelte, ha più possibilità. Al momento è quello che mi sono detto, che sarà anche difficile avere già solo l'in-house. Dall'in-house si può passare all'azienda in pubblica, ma se verrà un privato per 20 anni ce la siamo giocata. Quindi quello che noi lo vediamo è solo appunto la fondamenta e basta, cioè è solo la partenza. Che andare subito al pubblico era impensabile, cioè visto il risultato del referendum, con l'in-house si può passare al pubblico. Quindi è come dire, non siamo ancora proprio a parte che dopo il referendum si fanno le leggi per garantire il referendum. Il problema è che c'è un vuoto normativo. Noi abbiamo la legge regionale che dice che è di rilevanza economica il servizio idrico, e quindi diventa un bel problema fare una. Cioè, poi se qualcuno vuole farlo, noi lo appoggiamo subito e facciamo la lotta, come si diceva, insieme. Però ci sono dei problemi e ci vorrebbe una legge. Il problema è che nel momento in cui è stato fatto il referendum, il vuoto normativo non c'è, se no il referendum non si poteva fare. La Corte istituzionale ha detto che entra la norma europea su, come viene chiamata in Italia, di rilevanza economica, e quindi sono le tre, sono quelle. Poi certo ci sono gli spazi, se uno lo vuole anche rifare l'azienda pubblica. Napoli ci sta provando, stiamo parlando di un comune con le spalle belle larghe, ci sta provando, speriamo tutti che ci riesca, e può essere l'apertura in cui seguirla, in cui andare avanti. Però comunque in provincia di Como quello che si è visto, c'è la volontà di fare l'in-house, però non si sta facendo un in-house al momento attuale. E quindi stiamo cercando almeno di recuperare quello, stiamo parlando proprio dei minimi termini, non della cosa che va bene. Allora togliessero finalmente, quindi esce anche dal patto di stabilità, cioè ci sarebbero tutta una serie di conseguenze, a parte che va rivisto il patto di stabilità come meccanismo, perché appunto diventa perverso, uno che i soldi non li può spendere, chi li ha spese male li può spendere quasi, no? Si arriva quasi a questa assurdità. Però quindi proprio qui parliamo dei massimi sistemi che non, per carità, vanno mossi, e si cerca di farlo. Fare l'azienda speciale, certo, se voi foste disponibili, noi lo aiutiamo sicuramente, non diciamo di no. Parliamo dell'esistente, ecco. Quindi stiamo parlando dal punto di vista molto pratico di quello che per ora si sta facendo a Como. Comunque ha detto l'in-house, viene fatta in questo momento male. Cioè l'azienda che viene prevista, la bozza, non è un in-house, perché prevede la partecipazione dei privati, prevede 2 livelli, prevede tutta una serie di cose che non è un in-house, almeno dalla nostra analisi. Però a quanto pare è stata supportata questa analisi anche dagli esperti legali, per loro sia avvocati, per l'ufficio d'ambito, quindi non era tanto peregrina la nostra. E quindi questo stiamo parlando dall'esistente, non di quello che noi vogliamo, che sono 2 cose diverse, cioè un po' in linea, ma diverse. Quindi adesso cosa succede? Cioè, hai detto, non si sta facendo ancora. Beh, adesso noi faremo una lettera a tutti i sindaci, diciamo, e anche una proposta di emendamento, da presentare attraverso chi ci segue a livello provinciale, che venga inserito in questa bozza che è un in-house, che deve esserci la ripubblicizzazione, almeno questi 2 termini, no? E sensibilizzare mandando lettere, contattando i sindaci su questa cosa, perché adesso questa è la tappa immediata del momento, ma non è il nostro fine, è una tappa che è importante, perché cerchiamo di dare le fondamenta, almeno quel minimo. Stiamo iniziando a scavare, più che altro comunque qualche palo lo stiamo mettendo giù, poi stiamo continuando a cercare di avere modifiche di legge a livello regionale, nazionale. A livello regionale abbiamo appena avuto un'audizione, però appunto essendo audizione ascoltano ma non dicono, ecco. Adesso però, siccome abbiamo chi ci rappresenta e ci segue, vorremmo sapere cosa sta succedendo. Sappiamo benissimo che i Formigoni finora hanno detto no, la nostra legge, che tra l'altro la legge regionale dice un'applicazione al 23 bis, il 23 bis non c'è più, cioè solo per questo andrebbe modificata, non può rimanere, cioè, ma questo crea confusione. probabilmente è voluto perché così uno a un certo punto dice: ma io cosa faccio? Privatizzo, non so più cosa fare, non so più quei problemi che avete, no? Che poi la cittadinanza si trova con lo stesso identico problema, perché non è che li cambia, che i lavori comunque vanno fatti, se vanno fatti vanno pagati, ai cittadini non cambia nulla, cambia ad alcuni sindaci che a quel punto se la sono risveglia, dicono: no, è colpa della società, non è più colpa mia. Però non è, per chi lo fa con passione, perché ci crede, non è la soluzione sicuramente. Poi abbiamo visto che i lavori non vengono fatti, aumentano le bollette, i lavori non vengono fatti per privato. Quindi per tutta una serie di meccanismi su cui si può rivalere. Quindi noi per ora stiamo cercando come tappa di sollecitare almeno su questo, di partire almeno con qualcosa che abbia un senso. Non abbassiamo la guardia. No, non abbassiamo la guardia.